purtroppo il mio rapporto con la tecnica è grosso modo quello di Jerry Lewis, insomma, se qualcuno segue. Ecco, direi innanzitutto, ringraziando naturalmente l'autoressa Trevisan, il libro di Luana Angermayer che avete visto probabilmente, e comunque poi è da vedere e naturalmente da prendere in prestito in biblioteca. È effettivamente un giallo in qualche modo, diciamo, è un giallo non molto acceso, se vogliamo riferirci al colore. Voi sapete che la definizione giallo è solo italiana e nasce da una famosa casa editrice che negli anni 20 dello scorso secolo, quindi quasi un secolo fa, diciamo, con la copertina gialla attraeva i lettori, no? In un'epoca in cui notoriamente non esisteva la televisione. Insomma, fino ai adesso, non so esattamente, ma insomma, fino a decisamente dopo il dopoguerra in Italia non c'era la televisione, c'era il cinema, c'era la radio e c'era la letteratura, no? E diciamo, questo genere giallo ha delle connotazioni specifiche. In altri posti si parla di letteratura criminalistica, no? In inglese, in tedesco, in olandese, eccetera. In Francia c'è un altro colore, si parla le noir, no? Il nero. Ecco, per dirvi più o meno, vabbè, il nero è già più riferito a situazioni cupe, appunto criminali e naturalmente a azioni appunto criminose. Io vi segnalo così in modo del tutto introduttivo un bel libro che secondo me rimane molto valido per capire qualcosa sul giallo, per dirla all'italiana. Che è quello di, credo che in italiano sia tradotto come Storia del giallo, quello di Ernest Mandel, che era, perché è morto, un economista, un marxista, un trotskista, che però ha scritto anche questo testo interessante, importante, che diciamo sulla letteratura criminale, diciamo così, da un certo sguardo. Esiste anche in italiano, in biblioteca potete cercarlo. Io adesso non dispongo dell'edizione italiana, quindi non so dire, però era un belga, anche a dimostrazione del fatto che le barzellette francesi sui belgi non valgono, c'è un pregiudizio sui belgi, no? Perché parlano il francese in un modo un po' particolare, ma non è questo che. Venendo più da vicino al nostro libro, diciamo che gli ingredienti del giallo ci sono, poi dirò ancora qualcosa in più, ma aspettiamo anche la lettura che vi darà qualche ragguaglio maggiore. Però ecco, volevo subito dire che ci sono delle caratteristiche appunto per cui non è un giallo acceso, come vi dicevo, non è un giallo violento, ecco, mancano scene di violenza, c'è il crimine, o meglio ci sono i crimini, però non vengono rappresentati in modo duro, in modo hard, no? E così, tanto per essere chiari, diciamo, si rappresentano le cose, i delitti, delitto nel parco è il titolo, a cose a fait accompli, no? A cose avvenute. Quindi non c'è, tutta la durezza della rappresentazione che in genere nei gialli, tra virgolette, contemporanei trovate. Ecco, io porto come esempio contrario e per me abominevole, io ho provato a leggerne uno a fine anni, nel 2000, insomma, mi sovviene, di Patricia Cornwell, che va molto per la maggiore, è una cosa terrificante, no? È un'autopsia continua, no? Come CSI, come quei terribili telefilm che occupano così le menti di qualcuno. Io dico la verità, li trovo atroci. Sarà una questione personale. Ecco, tutto questo, io aggiungo, per fortuna non c'è nel libro di Luana Angermeyer, no? Dove diciamo l'andamento complessivo è molto più soft, per usare un termine che ormai conoscete tutti, è molto più dolce, o comunque diciamo le scosse violente appunto arrivano, ma arrivano dopo e comunque non sono mai così di impatto. C'è un posto anche forte ai sentimenti, all'umanità, tutto quello che manca nella tradizione criminalistica, almeno da insomma, io non sono poi uno specialista, ma insomma da Max Pillane in poi manca. Ecco, gli esempi che vi davo sono assolutamente nel senso della disumanità. Perché? Perché tutto lo fa la tecnologia soprattutto quella genetica, no? Perché le ricerche sul DNA, tutto questo, ecco, occupa nella letteratura criminalistica uno spazio enorme. Qui no, e difatti poi, senza poi voler anticipare troppo, e mi fermo per non togliervi il piacere della scoperta, della sorpresa, il tutto, diciamo, avviene attraverso un riconoscimento che è attraverso delle foto. La fotografia, insomma, ormai è un qualcosa che si conosceva già all'epoca. Voi sapete, adesso a parte la signorina Scuderi di Hoffman, che secondo me è il primo esempio di letteratura criminalistica o criminale, Edgar Poe, I delitti della Rue Morgue, che probabilmente conoscete, e molto più noto a tutti, Sir Arthur Conan Doyle in Inghilterra con Sherlock Holmes, che invece per me rimane insuperabile. Io non ho problemi a dirlo, io ho un culto vero e proprio di Sherlock Holmes, insomma, ecco, ma vabbè, insomma. Però vedo che ce l'ha anche il marxista che citavo, Mandel, quindi insomma, voglio dire, l'aristocratico individualista Holmes è amato anche in altri lidi, diciamo, ideologici. E ecco, quindi quella definizione, io nell'introduzione mi pare di aver scritto giallo antropizzato, nel senso, ecco, che c'è un reductio ad personas, se non ad personam. C'è anche questo, perché c'è la protagonista femminile, questa Marianna, che ha indubbiamente una grandissima forza d'animo, no? Che si vede subito all'inizio. E qui mi accosto per dire un'altra componente. Ecco, quando si parla di letteratura al femminile, di scrittura al femminile, bisogna sempre fare attenzione, perché non è vero che le donne scrivano diversamente dagli uomini. L'esempio che facevo prima, la Cornwell, è invece di una letteratura criminale di estrema durezza, come accennavo. E quindi non è che la differenza di genere sia poi così determinante. Io direi invece che nel caso di Luana Angermeyer lo sia. Si sente? Sì. Lo sia, nel senso che diciamo l'autrice riesce effettivamente a dare, a imprimere, direi, una forza particolare ai personaggi femminili, tutti. Marianna, che è la protagonista, l'amica, la madre, in genere, ecco, diciamo, mentre i maschietti sono un pochino più tonti o un pochino più vigliacchi, no? Il primo, diciamo, la prima relazione seria che la protagonista viene ad avere, grazie, è un... Era un po'. Non funziona. Facciamo a meno così, perché non va. Carichiamo. Non funziona, ma proviamo, vediamo se. Dicevo, il primo, la prima relazione sentimentale che la protagonista ha nel trasferimento a Torino è un ragazzo che quando, senza voler appunto anticipare nulla, quando le cose diventano un pochino più complesse e un pochino più spinose, si allontana. Quindi diciamo, i maschietti, con le dovute eccezioni, non ci fanno una figura eccelsa. Ecco, quindi una forma di letteratura al femminile e anche di letteratura di genere, se vogliamo, con tutte le riserve del caso, perché io appunto non distinguerei troppo tra uomo e donna, scrittore e scrittrice, c'è. Ancora da segnalare Luana Angermeyer, che voi conoscete anche come pittrice. Io mi permetto di ricordarvi che il giorno 24 c'è un'inaugurazione di una mostra dell'autrice. E ecco, oltre che come scrittrice, come illustratrice, dicevo, come scrittrice in specifico, oltre appunto che alla pittura e diciamo a una forma di pittura che è l'illustrazione, ma spesso diciamo sono quadri che poi con opportune modifiche diventano illustrazioni iconografiche. Tutto questo, ecco, voi lo trovate perché l'anno scorso, adesso, circa un anno fa, forse poco più di un anno fa, abbiamo presentato Punto e a capo, che è un volume di racconti della scrittrice, con un racconto, Il mostro, che già anticipava, se vogliamo dire così, tematiche criminali, gialle, ecco, con maggiori riserve. Ancora un aspetto, ecco, a livello narratologico, quindi dal punto di vista della narrazione, voi avete una narrazione che è abbastanza piana, non ci sono flashback, cioè ritorni al passato duri, o non ci sono neppure anticipazioni, diciamo, che possano in qualche modo sconcertare. Quindi in qualche modo è rispettato il work in progress temporale, il progresso temporale è quello che abitualmente noi speriamo, ecco, molti di noi vengono ad esperire. Ancora qualcosa, però poi passiamo alla lettura, i detective. Ecco, sono dei detective consueti, non sono, ecco, il grande investigatore individualista come Sherlock Holmes, non c'è neppure il proposito di belgi, no? Citato prima un belga, ma tutti noi siamo costretti naturalmente a ricorrere ad un altro grande belga nella letteratura criminale, che è Georges Simenon, il Maigret, no? Anche lì, ecco, una figura molto carica, che fa parte della polizia di Stato, però ha delle qualità che lo stagliano rispetto, diciamo, alla consuetudine, forse anche alla latitudine, no? alla troppa consuetudine, diciamo, dell'investigatore. Qui sono degli investigatori consueti, non hanno caratteristiche particolari, però ecco, sono carabinieri, poliziotti, vabbè, voi sapete in Italia, cosa abbastanza diciamo inconsueta rispetto ad altri paesi, c'è la distinzione, no, tra l'arma dei carabinieri e la polizia di Stato. Non sono, ecco, dei carabinieri come quelli delle barzellette, anche qui, ecco, insomma, attenzione, no? Sono dei carabinieri che sanno, diciamo, il fatto loro, quindi anche va a diciamo ulteriore conferma della, ecco, di una narrazione piana e di una narrazione che sa anche diciamo rifuggire da schemi troppo logori, no? Perché diciamo sparare sui carabinieri da un punto di vista metaforico, ovviamente, in senso metaforico, è un'abitudine consueta, no? Quando poi non se ne vedono anche invece i meriti, e qui i meriti invece vengono fuori, insomma, ecco, questo. Ancora qualcosa dopo, ma la lettura che è più importante. Marianna si svegliò nel mezzo della notte. Guardò l'orologio sul comodino. Erano le 3. Accanto a lei suo marito Luigi dormiva profondamente dopo la sbronza della sera precedente. La ragazza, piano, cercando di non far rumore, scivolò fuori dal letto. Scalza, uscì dalla camera, si avviò verso il bagno. Si guardò allo specchio. Un livido vicino all'occhio, un braccio dolorante le ricordavano la sera precedente. Non era la prima volta che Luigi tornava a casa ubriaco e la riduceva in quelle condizioni. Marianna disse a se stessa che quella violenza non l'avrebbe più subita. Si vestì in fretta, prese un borsone, vi mise dentro alcuni indumenti. Dalla giacca di Luigi appesa all'attaccapanni, prese il portafoglio, ne sfilò il denaro e lo ripose nella tasca. Piano, in punta di piedi, aprì la porta. Guardò per l'ultima volta la sua casa. Non era stata felice. Gli era rimasta anche troppo a lungo. Si era chiesta più volte perché Luigi l'avesse sposata. Per lui era solo una domestica che facesse sesso quando ne aveva voglia. Dei sentimenti di lei non gli importava nulla. Marianna chiuse la porta alle sue spalle, scese di corsa le scale, si ritrovò in strada. L'aria gelida della notte la fece rabbrividire. Si girò la sciarpa attorno al collo e si coprì la bocca. A passo svelto si avviò verso la stazione. Pensò: il primo treno che arriva salvo, poi vedrò dove andare. Non vedo l'ora di allontanarmi da questa città prima che Luigi si accorga della mia fuga. In stazione i grossi fari di un treno si avvicinarono e si fermarono sul secondo binario. Marianna si affrettò, scese le scale, attraversò il sottopassaggio, guardò il treno, lesse la destinazione, Torino. Pensò: andrà benissimo, è una bella città, mi cercherò un lavoro, finalmente sarò una donna libera. Salì sul treno. Trovò un posto in uno scompartimento dove c'era una coppia con una bimba di pochi mesi. Sistemò il borsone e si sedette. Dopo qualche minuto il treno partì. La ragazza fece un sospiro di sollievo e pensò: chissà cosa farà Luigi quando si accorgerà che me ne sono andata. Spero che non riesca a rintracciarmi, altrimenti mi ucciderebbe. La bimba dormiva tranquilla. Marianna la guardò e pensò: com'è bella, con quel visino piccolo e quella boccuccia carnosa. Lei aveva tanto desiderato avere un figlio, ma Luigi le diceva: adesso no, fra qualche anno vedremo. Io ho quasi 30 anni, ho l'età giusta per avere un figlio. Ma poi, pensandoci bene, meglio che non sia arrivato con un uomo così. Come aveva rimpianto la sua casa di campagna, vicino al lago di Caldaro, in provincia di Bolzano. La tavola allegra della domenica, con i suoi fratelli riuniti. Suo padre faceva sempre un brindisi prima di iniziare a pranzare e diceva: noi siamo poveri, ma abbiamo la più grande ricchezza. Siamo una famiglia unita. Ricordatevi che questa è la vostra casa. La porta per i miei figli è sempre aperta. Marianna chiuse gli occhi, esausta, si addormentò con il dondolio del treno. La luce dell'alba attraverso il vetro della finestra la svegliò. Sentì la voce del capostazione che annunciava: stazione di Torino! Prese il suo borsone e svelta scese dal treno. Si ritrovò sul marciapiede, impacciata, non sapendo da che parte dirigersi, pensò: ma dove vado adesso? Si accodò alla gente che infilava in un sottopassaggio. Si ritrovò fuori dalla stazione, vide un taxi e vi salì. L'uomo le chiese dove doveva portarla, lei gli rispose: la prego, sia gentile, mi porti in una pensione modesta, non ho molto denaro. Il tassista guardò la ragazza e pensò: ecco, un'altra in cerca di fortuna. Ma poi, guardandola in viso, le fece tenerezza. Gli sembrò una brava ragazza. Le propose una pensioncina di un suo cugino a un prezzo modico. Marianna lo ringraziò. Il tassista mise in moto e lungo il tragitto le chiese se era in vacanza. Lei, un po' a disagio, disse di sì, non voleva raccontare i fatti suoi a un estraneo. Davanti alla pensione con l'insegna da Mario, la macchina si fermò. Ecco, siamo arrivati. Marianna scese dal taxi, prese il suo borsone e insieme entrarono nella pensione. Il tassista chiamò il cugino ad alta voce. Si presentò la moglie, che come lo vide gli chiese: ma cosa fai, Carlo, da queste parti? C'è questa signorina che ha bisogno di una stanza. Vedi di poterla sistemare. Non c'è mio cugino? Ah, quello è sempre in giro e io qui, sempre a lavorare, rispose la donna brontolando. Finalmente Marianna si ritrovò sola nella sua stanza. Chiuse la porta a chiave e si distese sul letto. Era stanca, tesa. Si guardò intorno. Alle finestre c'erano delle graziose tendine azzurre. La stanza era piccola e pulita. E sopra ad un tavolino vi era un televisore. Le fece piacere e pensò: almeno la sera potrò passare il tempo. Stanca, si addormentò. Quando si svegliò, al momento non si rese conto di dove si trovava. Si alzò, mise a posto nell'armadio tutto quello che aveva nel borsone e poi uscì. Un sole tiepido l'accolse. Respirò profondamente e si incamminò verso il centro di Torino alla ricerca di un'agenzia di lavoro. Mentre camminava pensava: come l'avrà presa Luigi la mia fuga? Forse sarà andato dai carabinieri a denunciare la mia scomparsa. Ah, può fare tutto quello che vuole, ma io a casa con lui non ci ritorno più. Tanti pensieri le giravano per la testa. Troverò un lavoro, riuscirò a mantenermi da sola. Improvvisamente, piccole gocce d'acqua. Alzò gli occhi al cielo. Non prometteva nulla di buono, infatti dopo un minuto incominciò a piovere a dirotto. Marianna si rifugiò di corsa in un bar, si sedette ad un tavolino e ordinò un caffè. Si guardò intorno e gli occhi si posarono su di un cartello accanto alla cassa. Sopra c'era scritto: cercasi cameriera pratica. Proprio il lavoro che cercava lei. Aveva già lavorato in un bar per alcuni anni. Si alzò e andò verso la cassiera, le chiese di parlare con il proprietario del bar. Dal retro uscì un uomo che le domandò cosa desiderasse. Lei rispose che aveva letto il cartello ed era disponibile. L'uomo, alto sulla quarantina, la squadrò e poi le chiese se avesse già lavorato in un bar. Sì, sono pratica di questo lavoro. L'uomo ci pensò un momento, poi le disse: se per lei va bene, può cominciare a lavorare già da domani. Marianna uscì dal bar felice. Una fortuna così non se l'aspettava. Aveva smesso di piovere. A passo svelto si incamminò verso la pensione con animo più sereno. Il giorno dopo prese servizio al bar Chimera. Il locale era grande e frequentato da molti clienti. C'era molto da lavorare, ma era tranquilla. Sapeva che la sera sarebbe rientrata nella sua stanza senza che nessuno la maltrattasse. Era trascorsa una settimana di lavoro al bar. Mentre serviva un cliente al tavolo, entrarono due carabinieri che chiesero se lavorasse lì una certa Marianna Poli. Il proprietario guardò verso di lei, vide il suo sguardo impaurito e rispose: ha lavorato qui 3 giorni, ma poi non si è più fatta vedere. I due carabinieri se ne andarono e Francesco prese Marianna per un braccio e la tirò verso il retro del bar. Con voce alterata chiese: ma che storia è questa? Hai a che fare con la legge? Marianna, in lacrime, raccontò al datore di lavoro la sua storia, della fuga da suo marito Luigi e dei suoi maltrattamenti. L'uomo guardò i bellissimi occhi della ragazza che lo imploravano di aiutarla e si sentì intenerito da quello sguardo. Si rivolse a lei con fare protettivo. Vediamo cosa possiamo fare perché tu possa rimanere qui. Dovresti lavorare in nero, saresti meno rintracciabile. Signor Francesco, lei farebbe questo per me? Le sarei tanto grata. Vedrà, vedrà che non si pentirà. Lavorerò sodo, farò anche straordinari se necessario. L'uomo la guardò e le sorrise con benevolenza. I giorni trascorsero. Marianna lavorava serena. Il sabato era giorno di mercato e lei aveva la mattina libera e decise di recarsi a fare una passeggiata per distrarsi un po'. Pensò che le avrebbe fatto bene. La giornata era bella. Camminava guardando le bancarelle e c'era tanta merce interessante che al momento non poteva permettersi di acquistare. Si era fermata ad un banco per curiosità. Vicino a lei c'era una ragazza dai lunghi capelli neri che le chiese un consiglio sul colore di una maglietta. Cominciarono a scambiare qualche parola e nacque fra di loro una simpatia. Passeggiarono insieme per il mercato, chiacchierando, scoprirono di essere entrambe lontano dalla loro città per lavoro. Decisero di andare in un bar a prendere un caffè. Conversando, la ragazza, che si chiamava Amalia, le confidò che era andata via dalla sua città dopo il divorzio del marito e che voleva rifarsi una vita lì, a Torino. Anche Marianna raccontò la sua storia. Era fuggita da un marito violento e che ora abitava in una pensioncina alla periferia della città. Le due ragazze decisero di rivedersi e diventarono amiche. Marianna era contenta di aver trovato un'amica e di non essere più sola. Avere qualcuno con cui parlare e confidarsi la faceva stare meglio. Amalia la portò nella sua cerchia di amici. La sera, dopo il lavoro, si riunivano a scambiare quattro chiacchiere in un bar. Leonardo, uno della compagnia, incominciò a corteggiare Marianna, la quale si trovava a disagio nella sua situazione. Cercava di evitare di trovarsi sola con lui. Non voleva iniziare nessuna relazione sentimentale. Si confidò con Amalia, la quale le disse: «Sei una bella ragazza, è normale che gli uomini ti corteggino. Non conosco bene Leonardo, è da poco che è nella nostra compagnia. So che lavora come tipografo, di lui non so altro». Una sera la ragazza, mentre usciva dal bar Chimera, si sentì afferrare alle spalle e si voltò spaventata. Era Leonardo. Arrabbiatissima gli disse: «Mi hai fatto prendere uno spavento, ma come mai sei venuto qui?» Il giovane, sorridendo, rispose: «Volevo vederti e stare un po' in tua compagnia. Comincia a piovere, vieni, ho qui la macchina, ti accompagno a casa». Marianna voleva rifiutare l'invito, ma la pioggia scendeva a dirotto e accettò. Si avviarono correndo sotto l'acqua verso l'auto del giovane, vi salirono e lui mise in moto. Lei gli spiegò la strada dove abitava. Ad un tratto la ragazza si accorse che Leonardo andava in tutt'altra direzione e glielo fece notare. Lui sorrise e le rispose: «Lo so, facciamo un giro, voglio stare un po' da solo con te». Marianna protestò dicendogli che la portasse immediatamente verso casa. Il giovane fece finta di non averla sentita e continuò in quella direzione. La ragazza cominciò a preoccuparsi. Lui non parlava, aveva uno sguardo strano. A un certo punto il giovane si infilò in una strada buia, poi fermò la macchina. Lei ne approfittò per scendere. Lui le fu subito accanto, la afferrò per un braccio dicendole: «Dove scappi?» Cercò di abbracciarla. «Lasciami! Cosa ti sei messo in testa?» le gridò cercando di svincolarsi dalle sue braccia. Leonardo cominciò ad essere violento. Era chiaro quello che voleva. Marianna lo graffiò cercando di difendersi da quell'aggressione. Lui la schiaffeggiò brutalmente. Non era più il giovane gentile che la sera incontrava al bar insieme agli amici. Era cattivo, violento come un animale. Pioveva. Erano bagnati fradici. Ma il giovane non intendeva rinunciare alla sua violenza. Improvvisamente due fari illuminarono la strada. Marianna gridò: «Aiutatemi!» La macchina si fermò, scesero due uomini. Videro il giovane che cercava di violentarla. Andarono verso di loro per dare aiuto alla ragazza. Leonardo la lasciò, salì veloce in macchina e fuggì. I due uomini soccorsero Marianna. Il sangue le usciva dal naso, le vesti strappate. La fecero salire sulla loro auto. In stato confusionale, la ragazza raccontò loro ciò che le era accaduto. I soccorritori la volevano portare all'ospedale, ma lei non volle. Disse che stava bene, che voleva andare a casa. Aveva paura che all'ospedale le chiedessero i documenti e che i carabinieri la rintracciassero. I due uomini, vista la fermezza della giovane, l'accompagnarono alla pensione. Per fortuna riuscì a salire nella sua stanza senza che il proprietario la vedesse. Andò in bagno, si guardò allo specchio. Aveva il viso pieno di lividi. Si lavò, si tamponò il naso che sanguinava. Andò a stendersi sul letto esausta, pensando alla brutta avventura che le era capitata. Era stata fortunata che quella macchina passasse in quella strada. Marianna pensò a quel vigliacco di Leonardo che era fuggito e che lei non lo poteva denunciare per non essere rintracciata dal marito. Fu una notte lunga e insonne. Il mattino, dolorante, si recò al lavoro. Quando Francesco la vide, le domandò: «Ma cosa ti è successo?» Marianna non volle raccontare la sua avventura e gli disse che era caduta. L'uomo la guardò incredula e chiese: «Ma ne sei sicura?» La ragazza diventò rossa in volto e rispose: «Lasciamo perdere», e si avviò al lavoro. Nel pomeriggio Amalia passò a trovarla al bar. Anche lei le chiese cosa le era caduta, vedendola in quello stato. Marianna le rispose che dopo il lavoro gliene avrebbe parlato. Amalia disse: «Va bene, allora ci vediamo questa sera». Fu una giornata faticosa, non si sentiva molto bene, non vedeva l'ora di terminare il suo turno di lavoro. La sera si incontrò con l'amica e le raccontò la brutta avventura della sera precedente, di come Leonardo aveva tentato di violentarla e che per fortuna era passata in quella strada una macchina con due giovani che l'avevano aiutata. Amalia, incredula, l'ascoltò. Poi disse con rabbia: «Ha tentato di violentarti! Lo devi denunciare, quel farabutto! Non puoi non fare nulla! Che non si faccia più vedere nella nostra compagnia! Lo dirò a tutti i nostri amici, che sappiano cosa ha fatto quel mascalzone!» «Lo so che lo dovrei denunciare, ma tu sai la mia situazione. Luigi mi rintraccerebbe immediatamente.» Le due ragazze, chiacchierando, si avviarono verso il bar ad incontrare i loro amici. C'era da aspettarselo. Leonardo non si fece vedere. Amalia raccontò agli amici cosa era accaduto a Marianna. Rimasero stupiti e increduli che Leonardo, che sembrava un giovane così corretto, avesse fatto un'azione così spregevole. La sera, quando la ragazza rientrò alla pensione, trovò il proprietario che l'aspettava. Come la vide, con voce molto seria, la informò che l'avevano cercata i carabinieri. Marianna mutò lì e pensò: «Mi hanno rintracciata!» L'uomo duramente le disse: «Se ne deve andare via dalla mia pensione. Non voglio storie con la legge.» Marianna rispose che al mattino se ne sarebbe andata. Salì nella sua camera, si sentiva svuotata di ogni energia e pensò: «Ora cosa faccio? Dove vado?» Si sedette sul letto. Le lacrime le scesero sul viso fino agli angoli della bocca. Erano amare. Sentiva il bisogno di parlare con qualcuno. Chiamò Amalia al telefono. «Pronto? Chi parla?» «Sono Marianna. Scusa se ti telefono a quest'ora, ma mi sento così triste.» «Oh, raccontami tutto. Cosa ti è successo?» «Devo andarmene dalla pensione. Sono venuti oggi i carabinieri a cercarmi. Il proprietario mi ha detto che devo lasciare la stanza domani mattina e io non so proprio dove andare.» Amalia stette un attimo in silenzio, poi le disse: «Facciamo così. Domani mattina prendi la tua valigia e vieni da me e ne parliamo.» L'indomani Marianna lasciò la pensione e si recò dall'amica. Le due ragazze parlarono a lungo, poi Amalia le fece una proposta. «Perché non vieni ad abitare con me? Ci dividiamo le spese, converrebbe a tutte e due, che ne dici?» Marianna rimase sorpresa della proposta dell'amica, l'abbracciò felice dicendole: «Grazie, sei proprio un angelo, non so cosa avrei fatto senza di te.» Amalia la aiutò a sistemare i suoi vestiti nell'armadio dicendo: «Vedrai che staremo bene insieme.» Di fronte al loro appartamento abitavano due giovani, Marco e Luciano, che erano amici di Amalia. Ogni tanto la sera venivano a trovare le ragazze e ordinavano delle pizze dalla pizzeria sotto casa. Insieme trascorrevano la serata in allegria, cenando e giocando a carte. Queste cene avvenivano sempre più frequenti. Una forte simpatia era nata tra Marco e Marianna. Il giovane la guardava affascinato. La ragazza cercava di evitare il suo sguardo, anche se Marco le piaceva. Lui non sapeva che era sposata e lei non voleva che si sapesse la sua triste storia, per questo evitava il suo corteggiamento. Lui la invitava spesso ad uscire, ad andare al cinema, a teatro, ma la ragazza trovava sempre qualche scusa per rifiutare. Più lei si negava, più lui si innamorava. Il giovane chiese anche aiuto ad Amalia. Le rivelò i suoi sentimenti per Marianna e le chiese se lei sapesse se la ragazza provasse qualcosa per lui. Amalia però rispose: «Lascia perdere, Marco. Ha già tanti problemi per pensare ad una storia sentimentale.» «Quali problemi?» «Mi dispiace, ma questi sono fatti suoi.» Marco rimase male, ma non insistette oltre. Era lunedì, giorno di riposo del bar Chimera. Marianna faceva le pulizie di casa insieme all'amica. Suonarono alla porta. Amalia andò ad aprire. Si trovò davanti un uomo alto e grosso che le chiese: «Vorrei parlare con la signora Marianna». La ragazza intuì chi poteva essere l'uomo. Stava per dirgli che lì non abitava nessuna Marianna. Proprio in quell'istante Marianna si affacciò nel corridoio. Luigi la vide. Entrò di prepotenza e si scagliò verso la moglie, coprendola di insulti, andando subito alle mani. Schiaffi e spintoni verso la povera Marianna, che cercava di difendersi come meglio poteva. Lui le gridava: «Puttana, ti ammazzo!» Amalia, impaurita, andò di corsa a bussare alla porta dei loro amici. Per fortuna erano in casa. Spiegò loro in fretta ciò che stava accadendo. Si precipitarono di corsa nell'appartamento in aiuto di Marianna. Videro l'uomo che l'aveva gettata a terra e infieriva con calci e insulti. Marco gli si buttò addosso, gli sferrò un pugno in pieno viso facendolo barcollare. Cominciò una rissa, ma alla fine i due giovani riuscirono a far uscire l'uomo di casa. Aiutarono Marianna a stendersi sul letto. Piangeva, dolorante e sanguinante. Marco chiamò l'ambulanza e la portarono in ospedale. Il medico chiese a Marianna chi l'avesse ridotta in quelle condizioni. Rispose in sua vece: «Marco, è stato quell'animale di suo marito che l'ha picchiata». Il medico disse: «Devo fare la denuncia ai carabinieri per maltrattamenti». Ormai Marianna si era rassegnata. Luigi l'aveva trovata. Cosa sarebbe accaduto ora? Marco, vedendola così triste, le prese una mano. Lei lo guardò e pensò: «Ora sa tutto di me, chissà cosa penserà». Ma vide il suo sguardo dolce come sempre. Marianna si rassicurò, strinse la mano di lui e gli disse: «Vi ringrazio di avermi aiutata. Se non era per voi, Luigi mi avrebbe ammazzata». Marco si chinò su di lei e con un bacio le sfiorò la fronte dicendole: «Adesso non preoccuparti. Questa violenza ti permetterà di liberarti per sempre di lui». Marianna rimase 4 giorni in ospedale. Gli amici poi vennero a prenderla per riportarla a casa. Le fecero trovare una torta e la festeggiarono allegri con un brindisi. Luigi fu condannato a 3 mesi di carcere e a stare a debita distanza dalla moglie e non importunarla più. Francesco si recò a trovare Marianna a casa. Quando la vide così malconcia, le disse: «Adesso capisco perché fuggivi da tuo marito. Non preoccuparti per il lavoro. Pensa solo a guarire e a liberarti di quell'uomo». Le fece una carezza sui capelli. Le faceva tenerezza quella ragazza sola e indifesa. In quell'istante entrò nella stanza Marco. Vide la carezza di Francesco a Marianna e gli dette fastidio. Pensò: «Perché tanta confidenza? Non si sarà messo in testa qualche cosa?» La gelosia si impossessò di lui. Amava Marianna, ma non si era ancora dichiarato. Aspettava il momento giusto per farlo. Fu una settimana tranquilla. La ragazza si rimise in forze e ritornò al lavoro. Una sera squillò il telefono. Marianna andò a rispondere. «Pronto? Chi parla?» «Indovina. Non penserai di esserti liberata di me», disse l'uomo con voce minacciosa. La ragazza impallidì e rimase senza parole. Pensò: «Oddio, è uscito dal carcere!» Entrò nella stanza Amalia, la vide spaventata e le chiese: «Che succede?» Marianna, con un fil di voce, le disse: «È Luigi!» L'amica le prese di mano la cornetta del telefono e gli gridò: «Stai lontano da Marianna! Io ti faccio arrestare di nuovo!» «Stai piuttosto attenta a te! Se non ti fai i fatti tuoi, farai una brutta fine!» Amalia gli chiuse il telefono e, rivolgendosi all'amica, chiese: «Come hai fatto a sposare un uomo così malvagio?» «Quando lo conobbi non era così. È dopo che ha rivelato il suo carattere». Amalia, con un sospiro, disse: «Eh sì, purtroppo è sempre così. Ci si conosce dopo. Anche mio marito era completamente diverso da fidanzato». Interrompiamo. per lasciare due parole. Così, ancora sì. Sì. Mm-hmm. Bene. Grazie. È già a posto. È a posto, va bene. Grazie. Ecco, come avete visto, diciamo, qualche altro diciamo maschietto è abbastanza brutale, ma il primo episodio, quello del diciamo della violenza, qualcosa diciamo così, perché sennò fa troppo rumore. Sì. Diciamo l'episodio di Leonardo, quello della violenza in macchina, è diciamo propedeutico, preparatorio, ma non incide nel plot della cosa. Il marito, avete visto, avete sentito per meglio dire, e leggerete, ecco, e poi, vabbè, poi l'ho già detto. Passando ad altro, lo stile, avete visto, è uno stile piano, diciamo consuetudinario, quasi un linguaggio abituale, direi quasi il linguaggio che si adopera nella comunicazione orale, non solo o non decisamente nello scritto. Mancano le preposizioni incidentali, sono poche le subordinate, prevale la paratassi rispetto all'ipotassi, no? Se vogliamo dirlo in termini appunto linguistici. Ora, poi non ci sono, ecco, i dialoghi sono molto forti, il discorso diretto, come avete visto, prevale su quello indiretto. C'è semmai, qui non mi dilungo, una forma di indiretto libero. Per, ecco, invece una cosa più interessante forse, qui è anche un consiglio di lettura, sicuramente c'è, se non qui, forse nella biblioteca civica, non so, il libro che vi consiglio assolutamente, quello vecchio di François Truffaut, che di cui non so il titolo nella traduzione italiana, dovrebbe essere Il cinema secondo Alfred Hitchcock, non è così in italiano, credo sia delle Pratiche Editori, però c'è, non so, ecco, no, ma quella Mr. Hitchcock, was haben Sie hier gemacht, no? E quindi è diversa, no? Quella italiana non so come sia, però ecco, se lo leggete, ecco, quello assolutamente da leggere, perché forse nel cinema più che nella letteratura è da rimarcare la differenza tra l'effetto sorpresa e la suspense. La sorpresa è un qualcosa che capita all'improvviso, no? È quello che ex abrupto, diciamo, viene a rompere un po' l'equilibrio consueto. Invece la suspense è un qualcosa che viene preparato, no? Per fare un esempio molto banale, se faccio così è l'effetto sorpresa, se diciamo, ecco, questa è dovrebbe essere la suspense, cioè c'è una preparazione dell'azione, no? Esempio migliore però l'avete proprio in un film di Hitchcock che penso conosciate tutti, il vecchio Psycho, che ecco, non i remake o i numeri 2 o 3 che credo esistano, ma quello originale, dove appunto famosa scena della signorina che è impiegata di banca, ruba e scappa, e nel malfamato, poi se vi ricordate il film, Motel viene uccisa durante, pugnalata per meglio dire, durante la doccia, no? La doccia è diventata un qualcosa di tabù dopo Saeco, no? Ecco, io direi che qui prevale un suspense che però è sotto traccia, perché ci sono tre diciamo momenti clou, che sono quelli senza voler anticipare, lo sentirete dopo, diciamo un qualcosa che succede, che è un omicidio, e a sua volta la vittima, nel secondo momento la vittima, ha dietro di sé degli eventi delittuosi, non svelo di più, e alla fine naturalmente c'è lo svelamento di chi è stato, e c'è una forma, probabilmente vi ricordate dalla commedia latina il momento dell'agnizione, no? Della agnitio, quindi del riconoscimento di quello che è successo. E tutto questo, se voi leggete bene il libro, lo leggete con attenzione, appunto guardando al sottotesto, quindi a delle allusioni che nel testo ci sono, a delle piccole spie semantiche che trovate, c'è anche qualcosa che può portarvi a uno di questi tre momenti, anche soprattutto quello finale. Qui non voglio dire di più, perché il lettore non deve essere, non bisogna dargli troppi elementi per arrivare alla soluzione, anche perché molti vogliono arrivarci per conto proprio, giustamente, no? Adesso qui poi non è Agatha Christie, tanto per fare un altro nome, cioè non è la caccia necessariamente all'assassino, e vedrete poi che la soluzione è indubbiamente ancora parzialmente, diciamo, un novum, qualcosa di inaspettato, ma se avrete letto bene il testo, non è poi così inaspettato come potremmo dire. Ecco, questo tenevo a dire, perché bisogna pur dare qualche elemento per leggere il testo e per non farsi ingannare, perché naturalmente anche in questo giallo, non giallo o non troppo giallo, delle componenti appunto criminalistiche ci sono, e quindi naturalmente l'autore, con l'autrice nella fattispecie, con la sua capacità, riesce ad avvincervi al punto giusto. E qui mi fermo, perché altrimenti appunto vi svelo qualcosa che da svelare non è importante. Ecco, la dottoressa Trevisan mi dice che quindi è disponibile il libro. Sì, certo. Sì, anche qui. Quello di Luana Angermayer? No, sì. Quello di Tuifo Hitchcock. No, sì. Quello ce l'avevo in tedesco. Ce l'abbiamo, sì, anche sì, noi? Sarà. Ah, perfetto. No, anch'io, fra l'altro, avevo letto in tedesco, ma non, ecco, se... No, ce l'abbiamo comunque, ecco, nella versione italiana qua in biblioteca. Non so però quale sia il titolo, ecco, lo dovete controllare, guardate nella cosa e... No, dico, guardate voi lettori, intendo. Il cinema, non, ecco. Il cinema secondo Hitchcock. Ah, è proprio, quindi sì, il sì. Cinema secondo Hitchcock è nel francese, quindi è uguale. Bon. Ed è Pratiche Edizioni? Noi abbiamo una versione uscita con l'unità, quindi... Ho capito. Pratiche Edizioni, esatto, sì. Pratiche? Allora sì, è quella, sì. Sì, sì, no? Sì, sì. Ero convinto che allora appunto in tedesco che ha cambiato il titolo, ma non in italiano. Fra l'altro bisognerebbe poi, naturalmente, se qualcuno sa bene l'inglese, controllare l'inglese, perché naturalmente era uno sbobinamento. Hitchcock non è che parlasse francese, quindi vedere un po'. La collazione dei vari testi. Noi ci proviamo sempre col microfono, ma il problema sono le pile che non si caricano. Adesso abbiamo finalmente capito l'inghippo. Pending review, appunto, sì, è il problema. Sì. Il mattino seguente, i ragazzi caricarono sulla macchina tutto l'occorrente per un picnic e si recarono sul lago di Candia. Arrivati, cercarono sul prato un posto all'ombra. Dietro le loro spalle c'era un bellissimo parco. Stesero un plaid sull'erba e si sedettero per riposarsi. Giocarono, scherzarono, quattro giovani in cerca di una giornata allegra. Verso l'ora di pranzo, Amalia prese da un borsone una tovaglietta a quadretti bianchi e azzurri e la sistemò sul plaid. Vi appoggiò i panini che aveva preparato con salame e formaggio e una bottiglia di vino bianco. «C'è anche il vino!» gridò allegro Luciano. Dopo aver mangiato, i ragazzi si stesero uno accanto all'altro. Un po' per il caldo, un po' per il vino, si addormentarono. Quando si svegliarono, videro che non c'era Marianna. Si guardarono intorno, la cercarono, passava il tempo e cominciarono a preoccuparsi. Ad un tratto la videro arrivare dal parco a passo lento. Marco le corse incontro dicendole: «Dove sei stata? Ti stiamo cercando da un'ora. Ti senti bene? Sei così pallida.» «Mi sono svegliata. Voi dormivate e io ne ho approfittato per fare una passeggiata. C'è un parco bellissimo.» «Sei sicura di sentirti bene?» «Sì, sto bene, sto bene. Credo di aver bevuto un po' troppo vino.» Salirono in macchina e fecero ritorno a Torino. La sera Amalia raccontò all'amica di come si era preoccupato Marco per lei. Marianna con un sorriso le chiese: «Non mi dirai che era geloso?» «Penso di sì, è molto innamorato di te.» Trascorsero un paio di giorni. Una sera i quattro amici erano seduti sul divano e guardavano alla TV il telegiornale. Si parlava di un delitto avvenuto sul lago di Candia. Nel parco, sotto un cespuglio, avevano trovato il cadavere di un uomo senza documenti. La polizia stava indagando per conoscere l'identità dell'uomo. Amalia disse: «Che brutto morire così! Perché l'avranno ucciso? Sarà sicuramente per spaccio di droga.» Marco allora intervenne: «Proprio sul lago dove siamo stati noi.» Il giornalista raccontò che l'uomo doveva essere morto da circa 2 giorni. Era stato assassinato a colpi di pietra sulla testa. «Pensate che io ero nel parco. Avrei potuto imbattermi nel cadavere», disse Marianna. «Che ne dite se cambiamo argomento e ci facciamo una partita a carte invece di parlare di cadaveri?» Giocarono fino a tarda sera. Poi ognuno si ritirò nel proprio appartamento. L'amore tra Marco e Marianna diventava sempre più forte. Si sentivano finalmente liberi di amarsi perché Luigi non li aveva più disturbati. Le due ragazze erano coricate sul letto. Marianna disse all'amica: «Domani è sabato. Se è una bella giornata, visto che siamo liberi dal lavoro, che ne dici se andiamo al mercato?» Amalia era sopra pensiero e non rispose. Marianna allora la richiamò e scherzando chiese: «Ehi, sei innamorata? È a Luciano che pensi, vero?» Amalia si scosse e le rispose: «Scusa, cosa stavi dicendo?» «No, sai, stavo pensando a mia madre, che vive in una casa di riposo. Non sono più andata a trovarla e mi vergogno di comportarmi così.» «Perché non andiamo a trovarla domani? Siamo libere. Partiamo la mattina presto, che ne dici?» disse l'amica. monastero verresti con me. Mi farebbe molto piacere, rispose Amalia. Il giorno dopo, al mattino, le due amiche partirono per Firenze. Arrivate in stazione, presero un taxi e si recarono alla casa di riposo dove viveva la madre di Amalia. Varcarono il cancello e arrivarono davanti a una villetta bianca. Suonarono il campanello. Le ricevette un'infermiera che le accompagnò nella stanza della donna. Amalia andò verso la mamma per abbracciarla. Era seduta su una sedia a rotelle. La donna la guardò seria e la respinse dicendole: chi sei? Non ti conosco, non mi toccare. La ragazza rimase male, la guardò stupita e le disse: mamma, sono io, Amalia, tua figlia, non mi riconosci? La donna girò la sedia a rotelle voltandole le spalle e le disse: non so chi sei, vattene via. La ragazza la guardò trattenendo le lacrime incredule. Entrò nella stanza l'infermiera e, rivolgendosi verso le due ragazze, le informò sulla malattia della donna. Ha perso la memoria. Ha qualche momento di lucidità, sì, ma poi ritorna nel buio. Le due amiche uscirono dalla stanza deluse. Nel corridoio Amalia scoppiò in lacrime. Disse a Marianna: hai visto? Non mi riconosce più. Che tristezza. L'amica l'abbracciò per farle coraggio. Amalia continuò: era una donna forte e coraggiosa. Ha allevato 3 figli con tanti sacrifici e tanto amore. E ora non sa nemmeno chi sono. Marianna pensò: com'è triste la vecchiaia in quelle condizioni. Per tutto il viaggio di ritorno le due amiche parlarono poco. Amalia era silenziosa, pensava alla situazione della povera madre e di non poter far nulla per aiutarla. La sera vennero Marco e Luciano ed esse raccontarono loro ciò che era avvenuto a Firenze. Luciano abbracciò Amalia e cercò di consolarla. Per sciogliere la tensione Marco chiese agli amici: domani è domenica. Che ne dite se andiamo in gita al lago? Veramente vorrei andare al museo. C'è una mostra importante che vorrei vedere. Chiudersi in un museo con queste belle giornate, per piacere, no? Beh, c'è una festa in centro. Fanno le frittelle e c'è anche la lotteria. Dopo qualche discussione, si accordarono per andare alla festa. Il giorno seguente i 4 giovani stavano scendendo le scale per recarsi alla festa quando furono fermati da 2 carabinieri che chiesero loro se sapevano a che piano abitava Marianna Poli. Sono io, rispose la ragazza sorpresa. Ci deve seguire. Ma cosa è successo? Le diranno tutto in caserma. Marco la prese per mano dicendole: vengo con te, non ti lascio sola. Al commissariato li ricevette un brigadiere che fece entrare in un ufficio solo Marianna. La fece sedere di fronte a lui e le disse: Signora, mi dispiace, le devo dare una brutta notizia. Cosa è successo? Chiese preoccupata la ragazza. Il brigadiere, alzandosi in piedi e andando verso di lei, disse: hanno trovato un morto sul lago di Candia. Crediamo si tratti di suo marito Luigi Poli. Marianna rimase senza parole e impallidì. Poi si riprese e chiese: com'è morto? Lo hanno assassinato a colpi di pietra. Lo ha trovato un uomo che passeggiava con il suo cane nel parco. Dovrebbe venire con me all'obitorio per il riconoscimento del corpo. Uscirono dall'ufficio. Marco andò loro incontro e Marianna velocemente lo informò di ciò che era accaduto. Il brigadiere si rivolse al giovane dicendogli: venga anche lei con noi. Entrati nell'obitorio, i 2 giovani si guardarono intorno ammutoliti. Il brigadiere tolse il lenzuolo dal corpo del morto, cosa per lui abituale, e rivolgendosi verso Marianna, più pallida del morto, le chiese: signora, è il suo marito? La ragazza fissò il corpo cerio, gli occhi vitrei. La bocca, con un ghigno, le sembrò che ancora la minacciasse. Fu un terribile momento. Distolse gli occhi. Vacillò, Marco la sostenne. Il brigadiere le rifece la domanda: lo riconosce, signora? Sì, è mio marito. Uscirono dall'obitorio, procedendo a passi rapidi verso la macchina che li riportò in caserma. Il brigadiere, rivolgendosi verso Marianna, le disse: «Vada, signora, se avremo bisogno di lei la chiameremo, si tenga a disposizione». I due giovani si allontanarono silenziosi. All'aria aperta Marianna riprese colore in volto e si rivolse a Marco chiedendogli: «Chi può averlo ucciso?» Lui le rispose: «Come mai si trovava al lago di Candia? Ci ha seguiti?» «Evidentemente sì». «Forse lo avrà ammazzato qualche drogato per derubarlo, o qualche pazzo». A casa gli amici erano in attesa di notizie. Appena rientrarono vollero subito essere informati di tutto. Anche loro fecero la stessa domanda. Chi lo ha ucciso e come mai si trovava al lago? Amalia a un tratto disse anche: «Qualcuno ha fatto giustizia». Ma Luciano intervenne: «Non si augura a nessuno la morte». «Hai ragione, ma quell'uomo era una carogna». «Forse chiameranno anche noi in caserma», disse Marco rivolgendosi agli amici. «Se ci chiederanno se siamo sempre rimasti insieme, diciamo di sì, anche se Marianna si è allontanata per una passeggiata nel parco. Meglio evitare di rivelarlo, ci farebbero un sacco di domande». «Certamente, meno si parla con i carabinieri, meglio è». «Chiudiamo questa triste giornata, parliamo d'altro». Il giorno seguente, Marianna, dopo una notte insonne, si alzò per recarsi al lavoro. Spostò la tendina dalla finestra. Pioveva. Nervosamente si vestì in fretta perché era in ritardo e pensò: «Proprio oggi doveva piovere, ci sarà molto traffico per strada». Quando arrivò al Chimera, Francesco le fece cenno con la mano indicandole l'orologio per farle notare che era in ritardo. Nel bar c'erano già parecchi clienti. Si mise subito al lavoro. Mentre serviva ai tavolini pensava: «Devo informare i miei genitori della morte di Luigi. Verrà fuori tutta la storia. Dovrò raccontare dei suoi maltrattamenti e della mia fuga a Torino». Li aveva tenuti all'oscuro di tutto. Non voleva che si preoccupassero per lei. Loro credevano che tra lei e Luigi andasse tutto bene. Pensò di telefonare a suo fratello per cercare un aiuto, per spiegare ai suoi genitori ciò che le era accaduto. Compose il numero di casa del fratello e rispose proprio lui. «Pronto? Chi parla?» «Sono Marianna. Come stai, Luca?» «Oh, finalmente ti fai sentire. Va tutto bene?» «Purtroppo no. Ho tristi notizie da darti. Luigi è morto». «Morto? Ma come? Era malato?» La storia è molto lunga da raccontare per telefono. Non potresti venire tu da me? Sai, io non posso lasciare la città». «Ti sento strana, Marianna. Va bene, vengo io a Brescia e mi spieghi tutto. E anche il perché non puoi muoverti dalla città». «Ecco, non abito più a Brescia. Ora vivo a Torino con una mia amica». «Non ci capisco più niente. Penso che mi dovrai raccontare molte cose, Marianna». «Eh sì, molte. Ti vengo a prendere in stazione». Il treno era già in ritardo di un'ora. Marianna, ansiosa, camminava su e giù lungo il marciapiede del terzo binario. Finalmente il treno arrivò. La ragazza guardava i passeggeri che scendevano. Vide il fratello, lo chiamò e gli corse incontro. Si abbracciarono. Luca guardò la sorella. Erano 3 anni che non la vedeva. La trovò cambiata. Forse più bella, ma diversa. Si rivolse a lei. «Cosa è successo, Marianna? Ora mi spiegherai tutto». «Sì, sì, sì, certamente. Ma quando saremo a casa?» Amalia li accolse con un sorriso e allegra disse: «Ho preparato il pranzo». Marianna disse: «Questo è mio fratello». «E si vede, ti assomiglia molto, ha i tuoi stessi occhi. Dai, su, sedetevi, è già tutto pronto. Mangiamo prima che si raffreddi. Parlerete di tutto dopo». Terminato il pranzo, Marianna raccontò al fratello tutto ciò che le era accaduto dopo il matrimonio. Luca, a bocca aperta, ascoltava la sorella, incredulo che Luigi fosse stato così malvagio. «Perché non ci hai informati? La tua famiglia ti avrebbe aiutata. Non volevo far soffrire mamma e papà. Ho cercato di cavarmela da sola. Ora però glielo dovrai dire. Perché non puoi lasciare la città? Non sospetteranno di te. Amalia intervenne. Ma no, che stai dicendo? È solo la procedura delle indagini. Ma te la immagini tua sorella che ammazza Luigi, grande e grosso com'era, a colpi di pietra? No. Sorrise anche Luca. La sera fecero conoscere a Marco e Luciano il fratello. Cenarono insieme e Luca disse che avrebbe informato i carabinieri che era sua intenzione portare la sorella in Alto Adige, a Caldaro, presso i suoi genitori. Marco guardò Marianna. Non gli faceva piacere che lei partisse. Il brigadiere Zuccolo disse che prima che Marianna si recasse dai suoi genitori, voleva parlare con lei e i suoi amici. Si recarono tutti in caserma, li fecero accomodare, gli dissero che appena libero il brigadiere li avrebbe ricevuti. Per primo chiamarono Marco. Zuccolo a bruciapelo gli chiese dove si trovava lei domenica 28 luglio. Il giovane ci pensò un istante e poi rispose: ero con i miei amici al lago di Candia. Come? Eravate tutti e quattro al lago di Candia? La signora Polino me lo ha riferito. Siete sempre rimasti insieme o qualcuno di voi si è allontanato? Siamo sempre rimasti insieme. Verso le 18 siamo rientrati a Torino. Va bene, lei può andare, disse Zuccolo. Lo accompagnò alla porta e fece entrare nell'ufficio Amalia. La ragazza era un po' intimidita dallo sguardo burbero del brigadiere. La invitò a sedersi e anche lei fece la stessa domanda. Signorina, dove si trovava domenica 28 luglio? Ero in gita sul lago di Candia con i miei amici. Qualcuno di voi si è allontanato? Nessuno. Siamo sempre rimasti insieme. Anche a Luciano, il brigadiere fece la stessa domanda e ricevette la stessa risposta. Fu la volta di Marianna. Zuccolo le disse: lei non mi aveva detto che era stata sul lago di Candia. Perché? Mi scusi, ma non me l'aveva chiesto. E poi non sapevo che proprio quel giorno avessero ammazzato Luigi. Il brigadiere guardò Marianna e le disse: si alzi. La squadrò e pensò: piccolina, magrolina, mi sembra impossibile che possa aver ucciso un uomo alto e robusto a colpi di pietra. Marianna si sentiva a disagio sotto lo sguardo dell'uomo. Chiese: posso partire? Sì, signora, può andare dai suoi genitori, ma la prossima settimana rientri a Torino. La ragazza uscì dalla caserma con i suoi amici sollevata. Era contenta di partire con suo fratello, di rivedere i suoi genitori, il paese dove era nata, il bel prato verde davanti alla loro casa, il ruscello che lo attraversava e tutto intorno tanti fiori. Com'era stata felice la sua infanzia. La mamma che profumava la casa con le sue torte, il papà sempre abbronzato perché lavorava sotto il sole la sua campagna, Doc, il suo cane dal pelo nero e lucido. Immaginava già le feste che le avrebbe fatto. Partirono il mattino seguente, arrivarono a Bolzano, uscirono dalla stazione e si recarono a prendere il pullman per Caldaro. Conosceva bene quella strada, l'aveva percorsa tante volte, ma ora sentiva un'emozione dentro di sé, tanti ricordi, la scuola, le amiche, Gisella, l'amica del cuore. Ecco, il lago, la sua casa, il giardino con le rose. La corriera si ferma proprio davanti al cancello. Luca e Marianna scendono. E Dog, abbaiando festoso, va loro incontro. La ragazza lo carezza e lui, felice di rivederla, le lecca le mani, il viso. La mamma corre verso di lei, l'abbraccia, la tiene stretta a sé. Arriva papà Angelo, gli occhi azzurri gli brillano dalla felicità. Finalmente la sua bimba era a casa. L'aveva sempre chiamata così, bimba. Entrarono in casa. Marianna si guardò intorno. Tutto era rimasto uguale, come quando era partita. I cuscini rossi sul vecchio divano, il quadro di fiori alla parete. Mamma Lucia la guardò, la vide emozionata, ma anche intuì che c'era qualcosa che non andava. Guardava il suo viso smagrito e pensava: dov'è quel sorriso luminoso che io conosco? Come mai Luigi non è con te? Marianna restò in silenzio, trattenendo le lacrime. Intervenne Luca. Mamma, mia sorella ha tante cose da raccontarvi e purtroppo molto tristi. Cosa è successo? Marianna cominciò a piangere e tra le lacrime raccontò della morte di Luigi e tutto il suo calvario. I genitori la guardavano addolorati. Papà Angelo, rivolgendosi verso Marianna, gridò: se non l'avessero già ucciso, lo ucciderei io quel maledetto. Dovevi informarci di quello che ti accadeva. Ti avremmo aiutata a liberarti di lui. Non volevo farvi soffrire per causa mia. Il padre l'approcciò con tenerezza e le disse: ora torni qui, a casa, con noi. Vedrai, dimenticherai questa brutta storia. Non posso, papà. Ho un lavoro a Torino. Il padre la interruppe: troverai qui un lavoro. C'è anche zio Alfonso che ha aperto un bar al lago di Caldaro e sicuramente ti assumerà. Mi dispiace, papà. Devo ritornare a Torino per forza, fino a quando non si saranno risolte le indagini sulla morte di Luigi. Angelo la guardò e le domandò: non sospetteranno di te? Spero di no, ma devo essere a disposizione dei carabinieri a Torino. Intervenne la mamma. Speriamo che trovino presto il suo assassino e tu possa avere un po' di pace. Non ti lasceremo da sola. Questa è la tua casa. Coccolata dall'affetto dei suoi genitori, non avrebbe voluto partire, ma sentiva la mancanza di Marco. Questo non poteva dirlo a mamma e papà. Partì da Caldaro, promettendo che sarebbe tornata appena possibile. Fantasia. L'aveva già, sapeva già dove sarebbe andata a finire, cioè un schema. Sì, non proprio tutto. Però una buona parte, l'ultima parte poi è venuta dopo. Io faccio una domanda sciocca. Il bar si chiama Chimera. Sì. C'è, io credo di no. Cioè credo sia casuale. È casuale oppure... No, è un nome invenuto, ecco, casuale. Punto. Sì. Quali sono i suoi scrittori di gialli preferiti? Ma un po' più o meno, quasi tutti. Mi piace tutti i vari generi. Sì. Gli esempi che facevamo un po', non so, Sherlock Holmes o le cose sì, di Agatha Christie. Mi piace moltissimo. Chesterton forse, Father Brown, non so, ecco così, oppure ecco quelle, probabilmente le produzioni attuali che citavo, no, direi, no? Non sì, esorbitano, no, non esorbitano, sì, qualcuna meno. Comunque ecco il climax direi è cioè appunto la, diciamo la successione delle tre tappe che ho cercato di enucleare, cioè ormai avete capito, l'omicidio del marito, avete sentito quello che sta dietro e poi il diciamo lo svelamento finale, la soluzione, io trovo sia decisamente ben costruito. Certamente ecco. non è stata lei, sarebbe troppo semplice. Assolutamente, assolutamente. Ecco, però ecco, su questo manteniamo il più stretto riservo come grazie.